è l'ultima occasione per la Francia di penetrare non solo nel Nord Africa, ma anche di tornare in Africa nera e ritornare una grande potenza imperiale, quale oggi vuole tornare ad essere, avendo la forza nucleare e soprattutto avendo poi anche degli interessi particolari. Non dimentichiamo che Total è l'unica major petrolifera mondiale a non avere interessenze in Libia. Sicuramente questo è importante, ma bisognerebbe guardare oltre, guardare a fianco della Libia, cioè che la Tunisia, Algeria, dove la Francia ha dei solidi interessi, dei soliti legami anche con i governi, hanno bisogno di stabilità. E poi soprattutto la Francia deve saldare i suoi conti con il colonnello Gheddafi, contro il quale combatté in Chad una lunga e nascosta guerra proprio negli anni in cui anche la Francia era intervenuta in modo disastroso, devo dire, nel corso del genocidio e del conflitto Hutu-Tutsi. Quindi questa questione non è soltanto libica, naturalmente la Libia è l'epicentro, ma va al di là della Libia e vuol dire che la Francia, a fianco dell'Inghilterra, naturalmente vuole ritornare ad avere un grande ruolo in Africa, in tutta l'Africa. Naturalmente tutto questo farà da contrappeso agli interessi cinesi e da questo punto di vista, dal punto di vista dell'Occidente, non può essere visto negativamente.